si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua a 18 e 31 minuti in diretta fino alle 21 con Si può fare 800 24 0024 nell'orario consueto della Zanzara per tenervi in compagnia in questi giorni di feste fino, insomma, questa settimana e anche la prossima. Se volete interagire con noi ci trovate anche su Facebook, la pagina è Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24. Adesso cominciamo subito con una buona notizia, perché il programma è anche fatto di questo, di buone notizie che mettiamo anche al vaglio dei vostri interventi, cari ascoltatori, ed è questa la notizia con cui cominciamo. C'è, eccola, sigla. And now the good news. C'è l'accordo per Termini Imerese. Siamo praticamente a un passo per con la firma di un accordo e con la valutazione da parte dei lavoratori che dovrebbero esprimersi proprio in queste ore. Sarà la Metec, attraverso una nuova società, la Blutec, ad acquisire lo stabilimento di Termini Imerese dismesso dalla Fiat nel 2011. Il progetto industriale prevede la produzione di auto ibride e anche di componentistica per automobili. Dovrebbero essere recuperati tutti gli 800 dipendenti più l'indotto di Termini Imerese, un investimento da quasi 300 milioni di euro da parte di questa società, la Metec, che dunque si impegna a far ripartire lo stabilimento di Termini Imerese per produrre auto ibride, cioè anche con doppia alimentazione, anche elettriche, quindi insomma auto che guardano al futuro. E sono anni che si parla di rilanciare Termini Imerese, sembra che questa volta veramente ci siamo, sarebbe un'ottima notizia di fine anno. Vai! Opera sia assolutamente certa nei suoi costi, libera da infiltrazioni mafiose, controllata e si realizzi nel rispetto dell'ambiente. Questo è quello che noi faremo e che stiamo facendo, alla faccia di chi dice che non sono terroristi coloro che fanno gli attentati come quello che è accaduto ieri, cioè mettere una bomba in una cantiere di alta velocità o fare incappucciarsi e andare a bloccare le cose, cioè che cosa sono? Scherzi di carnevale o purtroppo drammaticamente sono pochi, pochissimi, minoranze, delinquenti che fanno atti terroristici. Così il ministro Lupi, che come sapete, come saprete ormai perché è tutto il giorno che se ne parla, già da ieri ha definito atti terroristici gli atti di sabotaggio, perché questa poi è la parola usata da Renzi stamattina alle linee dell'alta velocità. Siamo al quinto attentato in un mese e appunto Renzi stamattina dice no, caro ministro Lupi, non siamo di fronte a una riedizione del terrorismo, non utilizziamo nemmeno questo parole perché si tratta di sabotaggio. Renzi stamattina a RTL. Stiamo verificando ora per ora, minuto per minuto la situazione e voglio ovviamente rassicurare tutti gli italiani sul fatto che naturalmente non torniamo, visto rievocare parole come quelle del passato. È in atto evidentemente un tentativo di sabotaggio di alcune realtà legate alle stazioni e all'alta velocità, ma noi stiamo verificando, monitorando e indagando su ciò che è accaduto. Otto 800 24 00 24, cari ascoltatori, cosa ne pensate voi? Si tratta di terrorismo o di sabotaggio, come dice Renzi? Posso dire io una cosa che può sembrare retorica, che magari non c'entra nulla con, anzi sicuramente non c'entra moltissimo con questi tentativi di sabotaggio delle linee dell'alta velocità e con tutto il dibattito sulla TAV o no TAV in Italia. La cosa che voglio dire è questa: mi piacerebbe che ci fosse da parte del governo altrettanto impegno, di qualunque governo, di qualunque ministro delle infrastrutture, su un tema di cui non si parla assolutamente mai, ma che è molto importante per tanta gente: il tema delle barriere architettoniche proprio sui nostri treni. C'è un ragazzo che si chiama Jacopo Melio, dalla Toscana, è un 23enne che da qualche mese sta portando avanti una sua battaglia, ma non è una battaglia personale, è una battaglia di tutti. Ha scelto, come succede in questi casi, un hashtag su Twitter: vorrei prendere il treno. È diventata una campagna virale, ha già incontrato anche esponenti politici che lo hanno ascoltato, perché lui vorrebbe prendere il treno. Un ragazzo in carrozzina, Jacopo Melio, e come tanti altri ha difficoltà, perché i treni che garantiscono questa cosa qua si trovano con il lanternino. Poi naturalmente questa cosa non vale solo per i treni, ma vale per le toilette nei ristoranti, nei bar, eccetera eccetera. Allora, vorrei prendere il treno, questa sera si può fare? Fra l'altro lo sentiremo questo ragazzo, perché vogliamo fargli gli auguri di buon anno, vogliamo sentire come sta andando questa sua campagna. Questa sera sposiamo anche noi la sua battaglia. Ancora Renzi pensiero questa mattina a RTL, invece ha anticipato quelli che saranno i contenuti di domani sul Jobs Act. Anche per le aziende sopra i 15 dipendenti, la possibilità di non dover ricorrere per forza al giudice in caso di licenziamento, ma certo cresce la possibilità di un indennizzo economico come quello a cui lei faceva riferimento. Poi nei dettagli tecnici fino a domani mi permetta di non entrare, perché stanno ancora discutendo nei tavoli di lavoro al Ministero e a Palazzo Chigi, ma la sintesi di fondo è: non è che sarà più facile con il Jobs Act, cosa cambia? Dice qualcuno, sarà più facile licenziare. La dico in un altro modo: sarà più facile assumere. C'è un'attesa ormai spasmodica per questi decreti attuativi del DDL di riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act. Vedremo domani. 800 24 00 24, questo è un argomento su cui intervenire questa sera, cari ascoltatori. Il concetto espresso chiaramente in questo primo passaggio, ma anche nel prossimo vi facciamo sentire, di Renzi è meno giudici e più indennizzo. Eliminiamo il più possibile il ricorso ai giudici, questo sì. Non è un giudice che deve decidere chi sta in azienda e chi no. Il giudice deve mandare in galera chi ruba. Se un imprenditore deve cambiare i propri collaboratori, non credo che lo faccia a cuor leggero. L'importante è che l'imprenditore, se lo fa, non lo faccia per una discriminazione. Cioè, se uno discrimina per motivi sessuali, religiosi, ideologici una persona, è chiaro che arriva il giudice e lo stanga. C'è però una cosa di cui il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dice lui stesso di essere insoddisfatto, e non è che gli capiti spesso di dirlo, perché in genere il suo ottimismo è come si dice, insomma, è sempre col vento in poppa. Questa volta lui dice, a proposito delle partite IVA e dei giovani professionisti: abbiamo fatto un intervento che è giudicabile così così, bisognerà fare qualcosa di più, perché addirittura qualcuna di queste partite IVA e di giovani professionisti con questa ultima riforma rischiano di rimetterci, perché è una questione tecnica, è difficile da capire, ma insomma aumentano i contributi, e quindi Renzi annuncia un provvedimento ad hoc proprio per questo. Più avanti sentiamo. I commercianti e gli artigiani sono abbastanza aiutati, anzi molto aiutati, mentre il giovane avvocato o il giovane architetto ha qualche difficoltà in più, perché gli vengono alzati i contributi sociali, o meglio non viene bloccato l'aumento del contributo sociale, e quindi di conseguenza in queste ore nei social, su Twitter, su Facebook, un sacco di gente dice: Matteo, ma come funziona, ma perché? Allora, anche qui, per chi ha già una partita IVA non cambia. Il punto vero è che non possiamo, secondo me, non inserire nei prossimi mesi un provvedimento ad hoc su quel mondo lì dei giovani professionisti, che è quello che ha meno vantaggi di tutti da questa stabilità. Ready, In Italia spesso si buttano via anche le cose buone che si fanno, per esempio il lavoro in carcere, progetti di lavoro in carcere. In Germania le carceri sono piccole e medie imprese, lo ha proposto qualche tempo fa la trasmissione Report di far lavorare i carcerati, con meno costi per la collettività e con migliori risultati per quanto riguarda il recupero di queste persone. In Italia invece sembra che non si riesca nemmeno a far lavorare i detenuti nelle mense del carcere. È questa la follia che si prospetta dal primo gennaio del 2015, da quando una sperimentazione durata alcuni anni positivamente dovrebbe essere abbandonata. Noi ne parliamo con Lucia Castellano. Buonasera. Buonasera, buonasera. Lucia Castellano, che è ex direttore del carcere di Bollate. Il cosiddetto carcere modello, tra l'altro. Sì. Uno dei carceri dove le cose funzionavano e funzionano bene. Sì. Io ho riassunto così: 10 anni di sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda questo aspetto, cioè delle cooperative di detenuti che gestivano la mensa all'interno delle carceri. Adesso il ministro Orlando ha detto questa cosa non si rinnoverà, non ci sarà più. Intanto però le voglio chiedere, quando era lei direttore del carcere e che avete fatto questi progetti, quali sono stati i risultati? Allora, intanto io non credo, non ho sentito il ministro Orlando dire che questa cosa non si farà più. Io credo che spero e sono sicura che dal parte del ministero ci sia una voglia di passare dalla sperimentazione alla messa a sistema di buone prassi, e devono trovare il modo migliore, ma io non posso pensare che l'esternalizzazione dei servizi domestici, che noi abbiamo provato a fare non soltanto con la cooperativa di catering, ma anche per esempio col servizio di lavanderia o con altre cose, invece di magari noi detenuti affidiamo questo in via sperimentale, per ora tramite, l'abbiamo fatta tramite cassammende, ma poi io spero che sarà messa a sistema come in ogni paese civile, questa prassi di esternalizzare un servizio qualificando professionalmente il detenuto, invece di avere il detenuto che cucina, per capirci, per parlare in termini volgari, la sbobba per i compagni, perché di questo si tratta. Noi abbiamo una cooperativa che, oltre a prendere in carico i servizi di catering interno, fa anche catering esterno, e questo è espressamente previsto, perché l'ordinamento penitenziario prevede che si possa dare incomodato gratuito a cooperative, a società, a imprese profit, e non dei locali dove delle imprese organizzano le proprie attività. Di questo si tratta. Io credo che da parte del Ministero c'è solo il legittimo e sacrosanto desiderio di mettere a sistema una buona prassi nel migliore possibile modo, attraverso il sistema dell'evidenza pubblica. Io penso che sia questo. Quindi noi pazientemente attendiamo che il Ministero sappia, come sicuramente saprà, sfruttare un'eccellenza che è quella di Bollate, ma è anche quella di Padova e anche quella di tante altre realtà, e metterla a sistema. No, cioè, va detto, speriamo che sia così, assolutamente. Va detto che sarà così. Va detto che il ministro Orlando ha detto: invito le cooperative che svolgono questi servizi a immaginare altri modi di far lavorare i carcerati, insomma le persone detenute nelle nostre carceri. Quindi diciamo la direzione viene confermata, però poi, come spesso succede, a volte nelle more si trovano degli impedimenti, delle questioni che appunto non aiutano. Ora, nel caso, giusto per rimanere un po' al caso, il problema è che si dice che costava troppo, almeno io ho letto questo, cioè il motivo per cui si interromperebbe, e di fatto al momento la notizia è che si interromperà questa sperimentazione nel campo delle mense dei detenuti, gestiti da detenuti, e che costava troppo. Lei ha fatto riferimento alla questione della cassa ammende, cioè la cassa nella quale convergevano le multe pagate, le ammende pagate al posto di, diciamo, di scontare alcune pene. Ma in un modo o nell'altro in galera si deve mangiare, quindi è un servizio che ha un costo comunque. Io questo che non riesco a capire, cioè che lo gestiscano i detenuti o che si paghi una cooperativa pubblica o privata esterna, ci sarà comunque un costo. Allora tanto vale far lavorare internamente. Ma allora, intanto non bisogna capire, il costo deve essere chiaramente un costo standard, quindi è davvero compito del Ministero, del centro, cercare di organizzarlo nella maniera migliore. E voglio dire, questo è un punto che deve valutare il Ministero, nel senso che il costo è, deve essere standard. Ora sì, i detenuti hanno un costo standard per mangiare, ma mangiano in genere mediamente male. Se lo diamo alle cooperative, le cooperative sicuramente riescono a qualificare il menù, quindi è un problema anche di qualità del servizio, sì, non soltanto di quantità. Non so se mi spiego. Sì, o senta, di costo. Cioè, il costo significa, sì, anche abbattimento della recidiva, e significa, certo, anche non so come dire, miglioramento della dignità del vivere carcerario, quando mangi bene, quando il controllo viene fatto bene, quando la qualità della vita si alza. Questo è un risparmio per un'amministrazione buona. E questo punto mi sta particolarmente a cuore, il tema. E poi guardi, per esempio, sì, a Bollate, non sono negli altri carceri, ma Bollate l'amministrazione non spende di più. Questo è sicuro, glielo posso assicurare. Ecco, per esempio, già lei ci rincuola su quel. Quindi questo è un argomento a vuoto. Il punto è saper, sì, trasformare. Qui c'è l'abilità manageriale del Ministero che non mancherà. Saper trasformare una sperimentazione in una buona prassi. Tutto qui. Il punto che mi sta particolarmente a cuore, l'ha toccato lei poco fa, è quello della recidiva. Cioè, le faccio questa domanda, poi facciamo una pausa per il traffico brevissimo e poi ci risponderà Lucia Castellano, ex direttrice del carcere di Bollate. Cioè, quando ogni volta che noi facciamo progetti, che nelle carceri vengono fatti progetti di studio o di lavoro, abbiamo tassi di recidiva, cioè persone che tornano a commettere reati molto molto più bassi. Quindi questa è una sorta di assicurazione che noi facciamo per noi stessi. Questo è importante capirlo, altrimenti diciamo non si va da nessuna parte e non si capisce il valore di questi progetti che riguardano il lavoro, anche, dico io, compreso servizi di basso, diciamo, qualifica o di scarso interesse, come dice il ministro Orlando, come sembra aver detto Orlando, come le mense nelle carceri. Eccoci qua di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, stiamo parlando del possibile stop ad alcuni progetti di lavoro dei detenuti nelle carceri, in particolare le cooperative che gestiscono i servizi mensa. E con Lucia Castellano io le ho chiesto questo, appunto, di spiegarci perché dobbiamo immaginare, oltre a una questione di dignità e di recupero da parte di queste persone, di dignità umana, anche perché è proprio un'assicurazione che noi facciamo con noi stessi, una sana forma di egoismo quella di fare questi progetti nelle galere, vero? In che senso una sana forma di egoismo? Una sana forma di egoismo nel senso che si abbassa la recidiva e quindi siamo più sicuri noi stessi. Cioè, non è solo una questione, diciamo, di generosità, ma è anche una questione di sicurezza. È un elemento di investire nella sicurezza. In realtà il punto è che è una sana forma di civiltà, non è una sana forma di egoismo, è un punto di civiltà, cioè noi stiamo cercando di abbassare la recidiva, di dare dignità al vivere in tramenia e di dare soprattutto un lavoro ai detenuti dopo. Allora, il detenuto che impara a fare il pasticcere, il cuoco e a gestire un'azienda, è questo il punto, che certo, ha più quindi non c'entra l'egoismo. Ma c'entra che possiamo, diciamo, se io potessi fare una delle caselle nelle quali inserire gli investimenti fatti in questo senso, cioè non sarebbe solo la casella, diciamo, solidarietà, ma sarebbe anche la casella sicurezza sociale, perché sono persone recuperate e questo fa bene a tutti, no? Fa bene a tutti perché comunque la recidiva si abbatte, ma io sono convinta che il Ministero di questo è consapevole. Noi speriamo, di avere il tempo, sì, di mettere a sistema questa cosa, di far sì che veramente, che tra l'altro lo prevede anche la legge, sì, finora è stata una sperimentazione legata a cassa ammende, evidentemente questa cosa non può continuare in questi termini, si tratta di trovare altri termini, ma non di buttare il bambino con l'acqua sporca. Questo ma è il punto. Lei dall'altro, diciamo, dalla sua esperienza, e non sto scherzando, perché a parte che in questo, che nel caso di specie non c'è neanche, sì, acqua sporca, è no, un modo di dire, dall'alto della sua esperienza veramente come ex direttrice del carcere di Bollate e anche a questo punto come consigliera regionale lombarda di un partito, la lista Ambrosoli, che in qualche modo è alleata del PD e del ministro Orlando, una segnalazione, una lettera, un invito, ha pensato di fare, di scrivere qualcosa, di muoversi? Ma io sono anche vicepresidente della commissione regionale carceri, anche come commissione regionale carceri noi chiaramente stiamo monitorando quello che accade, ma io sono convintissima, perché ho fiducia nel ministero di cui faccio, mi sento ancora di far parte, quindi non credo che ci sia niente davvero di allarmistico. Ecco. Va bene, staremo a vedere, grazie, intanto auguri naturalmente, grazie, e buon Natale, Lucia Castellano, grazie. 800 24 00 24, cari ascoltatori, per intervenire anche su questo argomento, poi naturalmente anche per, se volete questa sera, proseguire un po' sul su quello che abbiamo cominciato ieri sera, un po' di Toto Quirinale, vogliamo rifare qualche nome, abbiamo avuto Roberto Benigni, Emma Marcegaglia, Maria Cannata del Ministero del Tesoro, Massimo D'Alema, Emma Bonino, Silvio Berlusconi, aggiungete voi, 800 24 00 24, è un argomento che ci sta sempre in queste ore, naturalmente in questi giorni. Michele da Massa Carrara, buonasera. Buonasera, mi senti? Sì, la sentiamo, prego, tocca a lei. Michele? No. Allora, il nome per Presidente della Repubblica, Oscar Giannino. Benissimo, il nostro Oscar Giannino, va bene? Nostro di Radio 24. Poi volevo dire un parere sul... Ma Giannino così, sul serio o più per... Oscar Giannino è davvero una persona valida che potrebbe dare una svolta al bilancio dello Stato. Va bene, in chiave economica. Poi? Certo. Poi, per l'iniziativa sulle carceri, è una cosa veramente meritevole, fondamentale, e vista la situazione delle carceri italiane, che sono più volte state condannate dall'Europa per la situazione in cui siamo, è un aiuto veramente determinante per migliorare la vita dei detenuti, e insomma, bene così. Speriamo che il Ministero ci ripensi a quello che ha dichiarato. Sì, anch'io spero che succeda questo, perché sarebbe davvero un peccato. Grazie Michele. Simone da Firenze, buonasera. Simone? Non lo sentiamo. Giancarlo, allora proviamo con Giancarlo che chiama da Brescia. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei, ad ascoltatori. Volevo porvi una domanda, volevo chiedervi se secondo voi è più terrorista uno Stato che affonda i propri cittadini con le tasse, che non gli garantisce un futuro, che diciamo è connivente con degli affaristi, piuttosto che delle persone che sabotano, e parlo di sabotaggio, una linea ferroviaria per dei scopi gravi. Attenzione. Beh, alle parole, sì, tra terroristi e sabotatori, sono molto, molto differenti. Attento anche lei, Giancarlo, alle parole, perché ha fatto un bel paragone. No, beh, il paragone ci sta. Sì. Volevo dire anche un'altra cosa. Ma il paragone ci sta, lo dice lei. Il paragone ci sta, lo dice lei. Sono in tanti, anche tra le forze, sì, dell'ordine, a essere stufi di essere messi come scudo a protezione delle mediocrità dei nostri politici. Ecco, spero che qualcosa cambi. Cosa, e in molte particolare? Volte per cambiare, molte volte per cambiare, ahimè, c'è una sillaba, anzi c'è una parola che ha cinque sillabe e che si chiama rivoluzione, e ognuno nella propria coscienza e nella propria società deve capire quale tipo di rivoluzione fare per cambiare le cose. Ma secondo lei c'è un elemento di quella che lei chiama questa rivoluzione in questi atti di sabotaggio alla linea ferroviaria? I sabotaggi sono delle espressioni forti di ideali. Non sono atti terroristici. Ma qua in questo non caso parliamo... qual è l'ideale? In questo caso qua quale sarebbe secondo lei l'ideale? Ma l'ideale può essere il NOTAV, ad esempio, che uno può o meno condividere. Io non sto condividendo nulla. Io sto semplicemente, voglio mettere l'accento su sulle parole che vengono anche dette dal ministro, che poi vengono corrette invece da Renzi. Il ministro parla di terrorismo, Renzi parla di sabotatori. È intelligente Renzi, perché fa una differenza. Però attenzione alle parole che utilizzano i ministri. Attenzione, perché è molto semplice puntare il dito nei confronti di chi utilizza strumenti forti per i propri ideali, ma se lo Stato reagisce utilizzando a sua volta parole tipo terrorismo, attenzione che si scatena qui qualcosa poi che è abbastanza difficile poi frenare. Quindi, anche io sono dell'idea che usare la parola terrorismo sia sbagliato, anche se non la seguo in tutto e per tutto nei suoi ragionamenti. Comunque grazie per aver aperto il dibattito anche su questo stasera. 800 24 00 24. Continuiamo dopo il giornale radio. Dopo. Per quelli che ci credono che spostarsi li salvi e comunque sia mobilità. Chi si oppone all'alta velocità sappia che non intimidirà lo Stato italiano. Il nostro governo e il nostro paese non hanno paura, hanno democraticamente deciso di realizzare un'opera e quell'opera sarà completata. Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul come reagirà, insomma, lo Stato di fronte a questi attentati o atti di sabotaggio. E c'è infatti una divisione, forse non solo terminologica, tra chi parla di terrorismo come il ministro Lupi e chi parla invece di più semplicemente di sabotaggio. 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi da quale parte vi situate? Lupi. È importante che questa grande opera sia assolutamente certa nei suoi costi, libera da infiltrazioni mafiose, controllata e si realizzi nel rispetto dell'ambiente. Questo è quello che noi faremo e che stiamo facendo, alla faccia di chi dice che non sono terroristi coloro che fanno gli attentati come quello che è accaduto di ieri. Cioè, mettere una bomba in una cantiere di alta velocità o fare incappucciarsi e andare a bloccare le cose, cioè, che cosa sono? Scherzi di carnevale? O purtroppo drammaticamente sono pochi, pochissimi, minoranze, delinquenti che fanno atti terroristici. Stiamo verificando ora per ora, minuto per minuto la situazione e voglio ovviamente rassicurare tutti gli italiani sul fatto che naturalmente non torniamo, visto rievocare parole come quelle del passato. È in atto evidentemente un tentativo di sabotaggio di alcune realtà legate alle stazioni e all'alta velocità, ma noi stiamo verificando, monitorando e indagando su ciò che è accaduto. Stasera, insomma, manca poco ormai a Natale, ma siamo in clima assolutamente di auguri e di festa. Cari ascoltatori, vi chiediamo anche se volete così aprirvi con noi ai nostri microfoni all'800 24 00 24 per fare gli auguri di Natale a qualcuno in particolare che vi sta a cuore, che so, a Renzi e al suo governo, perché faccia meglio di quello che ha fatto sin qua, oppure perché invece continui così, oppure a Berlusconi, perché questo anno, il 2015, sia migliore per lui di quello appena trascorso, oppure a Grillo, alle prese col trauma dei fuoriusciti e delle espulsioni. Insomma, auguri in libertà questa sera, 800 24 00 24. Io voglio fargli gli auguri a Jacopo Melio, un ragazzo della provincia di Pisa, di San Miniato, un ragazzo disabile che da un po' di tempo sta portando avanti una battaglia, una campagna virale che, come spesso accade, questa volta nasce su Twitter con un hashtag "vorrei prendere il treno". Sottolinea il fatto che per lui, come per tanti altri, anche questa semplice azione che consente di vivere, di spostarsi, di fare cose, è complicata. Buonasera Jacopo. Buonasera, grazie. Eccoci qua. Allora, una cosa che nasce... Quanto tempo fa hai pensato di fare questa campagna virale? Che poi c'è anche un blog e tante, hai avuto già degli incontri anche con tante persone. Quando nasce questa idea? Sì, nasce il 20 giugno, un po' per caso. Da una mia risposta su Twitter all'ex ministro Maria Chiara Carrozza. Sì. Perché lei diceva appunto di prendere il treno come tutti... E io le risposi facendole notare che purtroppo non tutti ancora oggi hanno la possibilità di prenderlo laddove ci siano delle difficoltà motorie oggettive, perché io sono disabile, sono un carrozzina e purtroppo il nostro paese ancora oggi non è proprio su misura di tutti. Ecco. Che risposta hai avuto in questi mesi? Una risposta sicuramente ottima da parte delle persone, tantissima solidarietà, tantissima voglia di mostrare quanto rispetto e quanta sensibilità ci sia verso la tematica. Da parte delle istituzioni tanto appoggio a livello, diciamo, teorico, ma l'atto pratico al momento solo la Carrozza stessa poi mi ha voluto incontrare e prendere subito un impegno concreto, perché vorrà iniziare un percorso di ricerca e di sviluppo alla sua università, alla Sant'Anna di Pisa, per progettare una soluzione che possa permettere a chi ha problemi di salire sui mezzi pubblici in maniera più agevole, diciamo. Che poi, insomma, venga il progetto dell'ex ministro Carrozza alla Sant'Anna, ma salta, è una tua conterranea, perché sta appunto a Sant'Anna, sta a Pisa. Sì. Però forse ci vorrebbe un po' di buona volontà, un po' di investimenti e da parte appunto anche delle istituzioni, che fino ad ora hai detto non è che ti stiano state molto a sentire. Noi ce l'auguriamo. Cosa pensi tu, per esempio, del nostro paese? È un paese civile o no, nonostante il fatto che non, per esempio a te non sia garantito sempre la possibilità di un'azione così banale come salire su un treno? Pensi che questo, diciamo, ci renda un paese incivile oppure no? È un paese civile, chiamarlo incivile è una parola forte, di sicuro tutti noi ogni giorno quando ci alziamo la mattina dobbiamo pensare che quello che facciamo potrebbe essere un problema per gli altri, non importa vedere i treni, basta vedere le macchine che ogni giorno vengono parcheggiate nei parcheggi per invalidi, anche se non c'è un motivo, basta vedere i negozi, gli esercizi commerciali che aprono e non sono accessibili. Quindi ecco, già il cambiamento dobbiamo farlo noi prima di tutto. Le barriere più importanti sono quelle sociali e quelle culturali, perché uno scalino meno male si supera se qualcuno ti dà una mano. L'ignoranza è un po' più difficile. Jacopo, tu quanti anni hai? Io ho 22. Sei un ragazzo, sei giovanissimo. Quali sono i tuoi sogni? Ho letto che sei studente, stai studiando? Sì, studio scienze politiche, indirizzo in giornalismo, e mi piacerebbe, o attraverso la comunicazione o comunque un impegno sociale, sicuramente fare qualcosa per gli altri nei limiti del possibile, insomma, e dare voce a chi per troppo tempo non ne ha avuta. Io credo che vorrei prendere il treno sia un'occasione nata per caso, ma che debba essere portata avanti, perché finalmente qualcuno sta avendo attenzione, sta avendo considerazione quando a oggi non veniva purtroppo considerato. E quello del non ascolto, secondo me, è la violenza più grossa che si possa fare a certe persone. È vero, è vero. E quindi mi auguro che questa sia un'opportunità, non tanto per dire cosa non si è fatto e guardare indietro. Io sono assolutamente aperto a chiunque e propositivo. Spero possa essere un punto di partenza per migliorare la situazione, perché insomma siamo nel 2014 e ancora per poco, perché mancano pochi giorni. A proposito, Jacopo, ti vuoi associare a noi, cioè esprimere insomma il tuo desiderio? C'è qualcuno a cui vorresti fare degli auguri, auguri particolari per qualche motivo, a te stesso, a qualcun altro? Ma io auguro a chiunque in generale, disabili e abili, di vivere la propria, il proprio territorio, la propria città, ma la propria vita in generale, senza alcun ostacolo e senza alcuna barriera, veramente, perché chiunque deve avere le stesse opportunità, gli stessi strumenti per fare qualunque tipo di scelta ritenga opportuna e più giusta per il suo futuro. Quindi questo mi auguro, libertà e indipendenza. Non saremo mai completamente autonomi, ma possiamo essere indipendenti e nessuno dovrebbe impedircelo, e questo me lo auguro, ecco, per chiunque. Va bene, grazie Jacopo Melli, auguri, auguri a te. Auguri, buon Natale. E se volete conoscere qualche cosa di più della vicenda di Jacopo e della sua battaglia, basta andare su internet, digitare "vorrei prendere il treno" e scoprite tutto. Facciamo un ascoltatore prima di chiudere velocemente. Simone da Firenze, buonasera. Buonasera a voi, anzi buon lavoro. Grazie. Senti, per le topoquirinarie. Sì. Allora, visto che l'Italia va nel dubbio se mandare Schettino all'Isola dei Famosi, io cambierei proprio rotta totalmente. Io farei Presidente della Repubblica De Falco. Ah, fantastico, De Falco, sì. Sì, sì. È una persona, secondo me, che ha mostrato noi italiani che siamo. Io ho fatto la crociera e viaggio di nozze sulla Concordia. E quando vidi Fincantieri Italia, dissi: che nazione stupenda, noi si sta andando con Schettino fino ad ora, io proverei con De Falco. In 2 anni lui studierebbe e saprebbe cosa fare, cosa far passare, no cosa non far passare per andare avanti con l'Italia. Bene Simone, grazie. Ti posso dire l'augurio per Renzi? Io sono di Firenze. Matteo, hai presente cosa hai fatto a Firenze? Fai tutto l'opposto per l'Italia, grazie. No, momento, scusi Simone, perché quello che ha fatto a Firenze non andava bene? Ma io sto guidando un autobus, viaggio con 98 minuti di ritardo. Stai guidando un autobus in questo momento? Sì, con l'auricolare. Ah, ecco. Ma sei in servizio? No, ora non sono in servizio. E stai tornando alla fine del servizio alla rimessa? Sì. Ah, ecco, quindi il tuo lavoro è questo. Stai guidando un autobus, sei con 90 minuti di ritardo? Sì. Vabbè, ma però il traffico non è che è colpa dei sindaci. Il traffico c'è nonostante comunque tutti i sindaci, insomma, non è che... Infatti c'è gli assessori alla mobilità e gli assessori al traffico. Cioè, qual è la differenza, Simone? L'assessore al traffico è che c'è tanto traffico e non ci si muove, non c'è strade, cantieri che non vanno avanti, insomma. Un bel lavoro. Il tuo giudizio su Renzi sindaco di Firenze da autista dell'autobus è un giudizio comunque negativo, fortemente negativo. Per me dove va? Portagliella. Addirittura? Un po'. Quindi adesso a Firenze va meglio, che non c'è più? Siete... Sì, un po' meno peggio. Grazie, buona serata. Ciao. I miss you round Robin Hood of me. Well, I think I'll mean just hear you again. We're told for hours and hours. I try to think of a better word for us. Alberto Aureliana, buonasera. Buonasera. Senatore, ex Movimento 5 Stelle, adesso gruppo misto? Esatto, sì, gruppo misto. Però è transitato anche attraverso un altro gruppo a un certo punto, se non ricordo male. Italia lavora in corso. Una componente sempre del gruppo misto. Sì. Sempre rimasto del gruppo misto, che si organizza in componenti talvolta, diciamo. c'è questa possibilità. Senta, non so se lo sa, questa canzone qua che abbiamo fatto sentire è di Cristian Iannuzzi. Lo sapeva? No, non lo sapevo. Perché lui, tra le altre cose, insomma, credo che abbia un gruppo, un piccolo gruppo musicale. Questa era una sua A Better World for Us. È una canzone che Cristian Iannuzzi, per chi non si fosse, diciamo, segnato questo nome, è uno degli ultimi tre fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Notizia di ieri. Aureliana, lei è un fuoriuscito della prima ora, diciamo così. Cosa ne pensa di queste ultime, ennesime tre dimissioni? Intanto non mi piace la parola fuoriuscito, perché io da parte per me c'è stata un'espulsione molto, sì, sofferta, e che quindi, diciamo, ho subito più che ho fatto anche fatica per molto tempo ad accettare. Adesso veramente si va avanti e si lavora benissimo anche nel gruppo misto. No, ma è un modo per mettere un po' insieme, perché ci sono quelli che hanno dato le dimissioni, tipo gli ultimi, lei che è stato espulso, altri che si sono allontanati, quindi uno tecnicamente prende atto che siete usciti, però è chiaro, nel suo caso è molto diverso, c'è stata un'espulsione. Sì, esatto, loro hanno preso questa decisione, prima di tutto, di abbandonare il Parlamento, il seggio parlamentare, il Parlamento, e ci si immagina che, visto il precedente di marzo di quest'anno, in cui cinque persone che fecero la stessa scelta, di cinque colleghi al Senato che fecero la stessa scelta, proprio in polemica anche lì a una scelta organizzativa, chiamiamola così, una scelta del gruppo di espellere in maniera illegittima me e altri tre, loro, dando le dimissioni da parlamentare, furono automaticamente anche espulsi dal movimento. Lo stesso si immagina che succeda con queste tre persone, con questi tre colleghi. Sì. Però, diciamo, per adesso loro stanno dicendo che vogliono rimanere dentro il Movimento 5 Stelle. Lo dico per chiarezza, perché non stanno, diciamo, poi è anche ragionevole la semplificazione che fate voi giornalisti, che usciranno, eccetera. Comunque è un segnale di fortissimo disagio, ecco, sicuramente, di una situazione che... Ma che colpa ha Grillo in tutto questo, secondo lei? Ma guardi, io credo che le motivazioni sono legate in particolare a questa scelta di un direttorio che, per Iannuzzi, io lo leggo da quello che si legge, che ha scritto lui su Facebook, per lui è inaccettabile che si organizzi in strutture che erano contrarie allo spirito del movimento e anche a comunicati politici di non tanto tempo fa, dello stesso Grillo. Quindi aver creato questo direttorio di cinque, scelto praticamente da lui, è imposto con una votazione online in cui... diciamo, votato online, ma sappiamo che il voto intanto non è molto controllato, quindi può succedere, può uscire il risultato che si vuole, come lasci dire così, e poi comunque i cinque nomi imposti dall'alto. Non è stata una vera scelta tra tutti i possibili candidati, che erano non solo i parlamentari secondo me, ma anche i consiglieri regionali o anche qualche sindaco, e da lì tirar fuori quelle 4-5 persone, o anche di più o anche di meno, che potevano aiutare, supportare Grillo in certe decisioni politiche. È stata una cosa che inaccettabile, oltre che in generale, a quanto capito da Iannuzzi, lui non piace proprio l'idea di questa struttura, ma non solo, anche la composizione è stata molto opinabile, forzata, tutto questo non... Però chiaramente queste cose andrebbero discusse, dico io, internamente, e in qualche modo arrivare a una sintesi, però è evidente quello che mi lamentavo anch'io, che poi questo dialogo interno non c'è. Si segnala sempre, parliamone, dovete parlarne all'interno delle assemblee, all'interno, sì, però non c'è ascolto, cioè si parla, ma per queste persone che esprimono pareri diversi ma molto condivisi, tra l'altro mi sembra che la decisione presa da loro tre, in tutti e tre della meetup di Latina, sia molto condivisa da Latina, dal meetup stesso. Quindi siano, diciamo, invece supportati dalla base. Insomma, lei ha detto. Stavolta non sono riusciti nel tentativo, diciamo, con me e con altri, di dire che c'era la base contro. Sì, invece ci hanno provato, hanno mistificato la realtà dicendo così, ma con lui, diciamo. Quindi adesso vedremo quali saranno i prossimi passi del movimento su queste tre posizioni. Lei ha detto rischiamo di finire come Scelta Civica, cioè una situazione proprio minoritaria, cioè a colpi di coerenza da una parte, con Grillo che evoca la mancata coerenza di chi viene espulso, da parte però anche invece di questi tre, per esempio, che hanno dato le dimissioni in polemica con le scelte anche di Grillo, ci si richiama proprio alla mancata coerenza rispetto allo statuto, rispetto alla regola dell'uno vale uno, eccetera eccetera. Cioè il Movimento 5 Stelle morirà nel nome della coerenza. Beh, questa interpretazione mi sembra anche molto, molto corretta. Io credo che da parte loro, sì, sono abbastanza d'accordo. Comunque penso che da parte loro c'è anche tanto le dimissioni da parlamentari, che io sinceramente condivido poco, perché se la polemica è col Movimento 5 Stelle, le azioni vanno fatte verso il Movimento 5 Stelle, non verso il loro ruolo di parlamentari, ma per loro lo fanno, credo, e qua è una mia interpretazione, non ne ho parlato assolutamente con loro, che soprattutto Iannuzzi lo conosco appena, gli altri due li conosco un po' di più, però non c'è nessuna diciamo idea concordata, io credo che lo facciano tutto per sgombrare il campo che sia il problema economico quelli che li guida nelle loro decisioni, che è quell'unica accusa che riescono a fare il Movimento 5 Stelle anche lì, mistificando la realtà con tutti quelli che per varie vicissitudini sono usciti dal Movimento 5 Stelle. Per sgombrare il campo da questo è arrivato al gesto estremo di dire allora piuttosto lascio il seggio parlamentare, che secondo me, dicevo, in questo non mi trovano d'accordo, però li capisco molto perché, come dicevo prima, è un segno di grande sofferenza, di grande disagio. Oltretutto temo, però purtroppo che già nei fatti, che inizierà questa lapidazione mediatica in cui siamo stati soggetti tutti, in maniera, con toni e con modalità eccessive, non assolutamente neanche criticata né dagli altri colleghi né dal blog stesso. Oltretutto questo attacco mediatico così forsennato è spesso, diciamo, è molto pilotato. Ma scusi, però l'attacco mediatico da parte di chi? Perché, da parte, no, io parlo dei social network, non dei quotidiani. Quindi non è un attacco mediatico, c'è mai una reazione di pancia sui social network, però è diverso. Attacco mediatico sembra far pensare che i grandi giornali e televisioni ce l'abbiano con voi. No, mi sono espresso male, intendevo i social network, che però pesano molto per chi, come tutti noi, insomma, ci vive dentro molto. Sì. Esatto, quindi, diciamo, questo è... A questo punto però, dunque, i senatori eravate 54, adesso credo sono 37 il Movimento 5 Stelle, complessivamente parlamentari fuoriusciti, sbaglio, siamo quota 26, ho letto male? Sì, no, è giusto, perché ci sono anche, quindi, 9, contando questi tre sarebbero 9 deputati e 17 senatori, sì. Quindi 26. Cosa farete, ragazzi? Farete qualche cosa a grande? Per esempio, primo banco di prova, voto per il Quirinale. Questi voti sono in libera uscita dal Movimento 5 Stelle, e dove potrebbero convergere? Su qualunque candidato a questo punto, proposto da chiunque, secondo lei? Ma qua io parlo per me, io valuterò i nomi che verranno fuori e cercherò di decidere serenamente un nome che abbia quelle caratteristiche di indipendenza e, diciamo, di autorevolezza che penso che tutti auspichiamo in un Presidente della Repubblica. Ma non potrebbe essere questo il momento nel quale proprio il Movimento 5 Stelle si insinua nell'asse che si è creato abbastanza forte, il patto del Nazareno tra il PD e Forza Italia? Se no, quando? Ma infatti questo sarebbe il modo un pochino di, diciamo così, di utilizzare i voti, di fare politica, che io mi auspicavo anche sin dall'anno scorso, quando ho fatto delle ipotesi che sono state poi diciamo, mal interpretate, travisate in pieno, però era questo il modo di farli contare questi voti. Io in genere lo vedo più nell'attività parlamentare al Senato, di poter in qualche modo condizionare il governo. Però anche in questo voto sono più di 100 effettivamente parlamentari, anzi ben più, saranno comunque 140 circa, quindi... Ripensando anche, scusi Aureliana, alla lista dell'altra volta che avevate votato online, erano quasi tutti candidati molto molto vicini alla sinistra e al centrosinistra, quindi se andasse nello stesso modo, diciamo, una convergenza sarebbe possibile nei fatti, insomma, nomi come Rodotà o altri. Ma sì, effettivamente sì, così è successo l'altra volta, anche io mi aspetto che potrebbe succedere ancora, io credo che però va tolta da parte del Movimento 5 Stelle quelle rigidità che a noi ci avevano impedito di andare oltre Rodotà, visto che poi non si riusciva a sbloccare sul nome di Rodotà, e alla fine è andato a finire che è stato riconfermato Napolitano, che comunque, insomma, ha fatto una scelta che io all'epoca non mi convinse, che sinceramente alla sesta votazione già accettare l'appello di tutti i partiti secondo me fu prematura, ecco, diciamo, non è che eravamo alla 20ª votazione, probabilmente poi col tempo, con le giornate che passavano, probabilmente sarebbe andati verso un nome che andava bene sia a 5 Stelle e ad altri, però purtroppo le cose sono andate come sono andate. Adesso spero che non si ripresentino rigidità su nomi, ma si guardi appunto a queste caratteristiche di indipendenza e di autorevolezza che credo che siano graditi a tutti, ecco. Va bene, grazie Alberto Aureliana, buona serata, auguri. Grazie altrettanto, a presto, e poi insomma ci sarà tempo per parlarne, perché tra una decina, 15 giorni sicuramente arriveranno le dimissioni di Napolitano e inizierà il balletto. Qualche sms a proposito anche delle Quirinali, Chiamparino al Quirinale, scrive Luigi al 3422386666, auguri a Grillo, l'unico in Italia che io possa stimare senza riserve, dice Gino. mi sento di formulare, dice Maria, i miei auguri all'onorevole Bersani, per il quale nutro stima. Renzi auguro la stessa lealtà che mostrarono i suoi nei confronti di Bersani quando si trattò di impallinare Prodi. Io sto con Danizza, ancora l'orsa Danizza al 3-4-8-6-6-6-6. Va bene, adesso invece riprendiamo con i vostri interventi, ascoltatori. Abbiamo Gigi che chiama dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera Alessio, guarda, sono contentissimo, non sai che occasione mi dai proprio per intervenire stasera. Volevo rispondere, Alessio, sono a rischio querela se do dell'infame a quello che ha appena parlato con te o no? Aureliana? Ascolta, voglio chiederti una cosa, Alessio, ma a quella gente là, a Orellana, a Battista, a tutti gli altri che sono fuoriusciti, devi fare semplici domande. Hanno per caso, adesso che non erano d'accordo sulla linea di Grillo per quanto riguarda disappunti e balle varie, no? Ma devi chiedergli se nel gruppo dove andranno si sono dimezzati lo stipendio, se sono dell'avviso che dopo due mandati devono andare a casa, o se possono essere ladri e continuare a fare i politici. Queste cose qua devi chiedergli, capito? Perché cosa vuoi che rispondano? Se gli chiedi se vogliono essere ladri, cosa vuoi che ti rispondano? Perché la cosa strana è questo, Alessio, sì. Mi sorprende, cacchio, questa gente qua sta sputando nel piatto in cui è mangiato, dove sono diventati senatori e deputati senza spendere un euro, maledizione, senza spendere un euro di campagna elettorale. La campagna elettorale gliela fatta Grillo, e questo qua devono baciargli il culo a Grillo, invece sono lì, sono Gigi, ma tu sei un elettore, un simpatizzante del Movimento 5 Stelle o giudichi? Sono simpatizzante, ma sai perché, sì. Alessio? Te lo spiego subito perché. Io ho sempre votato PD. Quando c'è stato il governo Monti, per alto senso di responsabilità, Bersani ha permesso alla Fornero di sgretolare l'articolo 18, di creare il problema degli esodati, e quando si è trattato di mettere la tassa patrimoniale, ha fatto un passo indietro tutti. Adesso mi dici di sinistra che cacchio hanno sti barboni? Me lo dici di sinistra che cacchio hanno? Gigi, calmati però, perché così perdonami Alessio, ma guarda, è una vita che volevo intervenire. Ma scusa, voglio chiederti questo però. Scusami Gigi. Voi, Alessio. Aspetta un attimo, voglio farti una domanda. La domanda è questa: quindi dentro il Movimento 5 Stelle, secondo te, non c'è nessun problema? Cioè, questi fuoriusciti sono fuoriusciti solo perché vogliono continuare a prendersi lo stipendio intero? Questo è possibile, perché naturalmente chi rimane invece deve devolvere, ma quindi dentro il Movimento 5 Stelle non c'è nessun problema di democrazia, il direttorio, non il direttorio, uno vale uno, va tutto bene. Ma il nano, mamma mia, il nano, secondo te dettava lui le regole o se le faceva dettare da Fitto, Alfano e roba di quella? Trovami un partito che non abbia uno. Ma poi Grillo non è nel Parlamento, non è come il nano che era seduto nel Parlamento. No, ma io ti ho fatto una domanda. La risposta qual è? Quale? La risposta alla domanda, se nel Movimento 5 Stelle puoi anche dire sì, va tutto bene così, non ci sono problemi di democrazia interna, ascolta, di mancanza di discussione, di decisioni prese solo sul blog, oppure va benissimo così. La domanda bene, è questa. Va tutto bene, va perché tutto in bene. Confronto, ascoltami Alessio, ma sai perché te lo dico, Alessio? Ma sì. Apri gli occhi, onestamente. Ma cosa io stasera ho sentito il telegiornale, vedevo che, come si chiama lì, Marino ha presentato la nuova giunta. Marino ha presentato la nuova giunta, ma ti rendi conto? Tu basta, viene scoperchiato l'inverosimile e basta un colpo di spugna, togli le persone, marce, che poi ascoltami, voglio vedere se tutti i soldi che hanno sequestrato adesso, no? Cioè, mi piacerebbe capire una destinazione, per dire ipotesi, se vengono a dire abbiamo sequestrato questi soldi che sono andati a costruire le case per i Rom, giusto, sai che quel balordo ha detto che i Rom fruttano più del traffico di droga, no? Che vadano, quindi li hanno sottratti ai Rom questi soldi, no? Ma in ogni caso, aspetta Alessio, perché poi ti ascolto per radio, perché faccio fatica a sentirti, ma tu dimmi adesso onestamente, dopo gli scandali che è successo, tu agli europei lo scandalo è successo 15 giorni prima delle europee, 15 giorni, non anni sì. luce, maledizione. Va bene Gigi, però giorni. Adesso se apriamo anche il file Expo, io ti ringrazio. Aspetta, io ti ringrazio per il tuo intervento, però adesso ti seguo perché altrimenti apriamo tutti i file che riguardano tutto, il contrario di tutto. Perché adesso invece voglio, cari ascoltatori, parlarvi di un'altra cosa. Chi di voi, chi di noi non ha mai fatto una recensione di qualche cosa online? Vai. where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where your dick is at. Listen, high test, I'm in love. But this song, so just take. Like you said, I'm hard enough. How can that blah, blah. Bla bla bla, dice questa canzone, è tutto, sembra essere quello che dice anche l'antitrust, è tutto un bla bla bla, cioè le recensioni, per esempio degli alberghi fatti online, rischiano spesso di essere bla bla bla, cioè fasulle scritte per altre, con altre intenzionalità, è per questo che l'antitrust ha multato TripAdvisor con una multa di 500.000 euro, forse saranno bruscolini per TripAdvisor. Probabilmente sì, perché si parla di un gigante di internet, una multinazionale. Fatto sta, vogliamo intanto vedere se gli albergatori sono felici di aver segnato un punto in questa battaglia. Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, buonasera. Buonasera. La domanda è questa, siete contenti? Perché questa è una vostra vittoria. Sì, è una, non è una vittoria degli albergatori, è una vittoria del mercato. Si pongono le premesse affinché ci sia più trasparenza. Nessuno vuol mettere bavaglio a TripAdvisor, non sono gli albergatori contro TripAdvisor. Gli albergatori, così come i consumatori, sì, che hanno promosso la segnalazione all'antitrust, sono contro le recensioni fasulle. Certo. Quindi bisogna utilizzare tutti gli strumenti disponibili, e a me fino ad oggi TripAdvisor si è rifiutato di farlo, dicevo, tutti gli strumenti disponibili per impedire ai furbi. Ma quali sono questi strumenti? Perché tra le cose che l'antitrust chiede a TripAdvisor di fare, non riesco a pronunciarlo, TripAdvisor, è quella, oltre a pagare la multa, è quella di rimuovere, credo, queste recensioni fasulle e forse anche impegnarsi a far sì che non si ripeta, cosa peraltro difficile. Guardi, lo scoglio è l'anonimato, finché si continuerà a chiunque sotto lo scudo e lo schermo di nomi fasulli, di nickname, di donne plume ed altro, di scrivere a sproposito, nel bene e nel male, perché c'è di tutto, ci sono recensioni di farlocche di tutti i tipi, finché si continua a consentire la recensione anonima, sì, ci sarà l'irresponsabilità, e dalla mancanza di responsabilità si apre un oceano in cui chi vuole sguazzare la merma lo fa tranquillamente. Ma guardi, questo è possibile. Noi facciamo un esempio molto pratico, ormai anche, sì, i ragazzini hanno in tasca uno smartphone che può fare fotografie. Allora, chi posta la recensione deve fare anche una foto dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, dimostri di essere stato veramente in quel posto. Questo potrebbe essere un'idea. Però mi scusi, io gliel'ho detto anche l'altra volta quando ci eravamo sentiti, c'è anche un problema che riguarda proprio gli operatori, ristoratori, in questo caso voi albergatori, cioè c'è un mercato, ormai bisogna dirlo chiaramente, di recensioni comprate, vendute e quindi sostanzialmente fasulle, che però viene alimentato anche da alcuni dei suoi, infatti, diciamo, associati. Abbiamo, non so se sono i nostri associati, c'è un mercato di recensioni, c'è chi le vende, se c'è chi le vende ci sarà anche chi le compra. Poi, se abbiamo un attimo, vi racconto anche come funziona questo mercato, perché ci sono degli episodi inquietanti, perché è diventato anche un mercato in cui si è esposti molto a ricatto, arrivano le mail agli alberghi di aziende che dicono: o compri 10 recensioni favorevoli da me, esatto, oppure ne faccio 5 contrarie, ti stronco, o compri il vino da me oppure ti faccio una recensione negativa. Però a me è capitato anche, poi la faccio proseguire. A me è capitato anche di sentirmi dire in un ristorante: se fate la recensione vi offriamo il ciupito. Io non lo so se questa cosa è legale oppure no. Sarà pure legale, ma è sbagliata. È giusto che l'esercente invogli il cliente, faccia sentire bene il cliente, e poi andando via dica al cliente: se si è trovato bene, ci fa la cortesia di lasciare una recensione positiva su TripAdvisor. Fin qui ci sta tutto e ci sta bene. Invece dire ti do il regalino, ti do qualcosa in cambio alla recensione, significa svilire il significato del sistema. Il sistema è fatto per consentire alle persone di parlarsi e di raccontare le vere opinioni di vere persone che hanno fatto una vera esperienza. E quindi ogni espediente che in qualche modo inquina questa possibilità fa un danno ai clienti. Quindi bisogna che anche, da, anche voi ci, cioè, ci mettiate parte vostra per risolverla questa cosa. E alla fine fa un danno anche al TripAdvisor. Sì. Da questi episodi, al di là della multa, lei diceva sono bruscolini, è vero, sono bruscolini, ma loro perdono evidentemente in credibilità, che è il loro principale valore, del loro mestiere, del loro mercato. E quindi perché non fare qualche sforzo, perché non gli si chiede nulla di straordinario, per rendere più difficile la vita ai furbi? I furbi ci staranno sempre, ma ci sono tanti modi. Tenete presente che TripAdvisor non è l'unico sito in cui si pubblicano le recensioni. A questo proposito, anche questa è una domanda che non so se le sarà già stata fatta, visto che il fenomeno delle recensioni online, informarsi, le persone che si informano su dove vogliono andare tramite recensioni, è un affatto inarrestabile, perché non fate voi una vostra piattaforma, gli alberghi italiani, con un bel nome, invece che TripAdvisor, Trip Italy, Trip Italia, non lo so, qualche cosa del genere. Esiste una piattaforma di albergatori italiani che si chiama Italy Hotels, e come quella ce ne sono anche le altre, però qui ripeto, il mercato è il suo mestiere, l'obiettivo non è fare un monopolio al posto di un altro monopolio, l'obiettivo è avere un po' di concorrenza, però potrebbe non guastare. Appunto, un po' di concorrenza non guasta, noi siamo impegnati insieme all'autorità antitrust anche su altri versanti che riguardano il funzionamento del commercio elettronico, chiamiamolo così, del prodotto turistico. Oggi una parte importantissima, cospicua del mercato si sta spostando online, e purtroppo questo mercato online è fatto in maniera ineguale, perché è composto da tante piccole e piccolissime imprese. Anche al grande albergo con 100 dipendenti, di fronte a un grande portale che fa 38 miliardi l'anno, e 38 miliardi di euro, è chiaro di cosa stiamo parlando. Non è neanche Davide contro Golia, in questo caso Golia e Davide non lo vede. E quindi occorre che le autorità regolatrici del mercato, e lo stanno facendo tanto in Italia quanto in tanti altri paesi europei, seguano da vicino la vicenda. La questione di TripAdvisor in questo momento, ci sono anche altri fari accesi, così come ci sono fari accesi su Booking.com, su Expedia, altri portali. Va bene, grazie, auguri anche a lei, buona serata Alessandro Lucara. Buon Natale, ragazzi, a tutti. A presto, direttore generale Federalberghi. Abbiamo Mentana col suo preambolo della 7, sentiamo. Ovviamente destano preoccupazione, ma suscitano anche disagi concreti, ritardi proprio nei giorni ovviamente in cui ci si sposta in vista delle feste di fine anno. Ma domani sulla strada del governo invece c'è un ostacolo, e l'ostacolo è costituito da un tweet, pensate, del capo dei senatori del nuovo centrodestra, che lancia un alto là sostanzialmente. Domani il governo vota e vara i decreti attuativi del Jobs Act, e o salta l'articolo 18 o il governo perde la sua credibilità. Questo dice Sacconi. Che cos'è la questione? Ma non è già saltato il Jobs Act e l'articolo 18? Facciamo la pausa, interrompiamo Mentana, ritorniamo subito dopo, sentiremo anche i titoli, a dopo. Allora, riprendiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Nazario che chiama da Forlì Cesena. Buonasera Nazario. Buonasera. Ascolti, avevo telefonato per fare gli auguri. Volevo fare gli auguri a tutto il Movimento 5 Stelle, di cuore veramente, perché diciamo è l'unico movimento, a mio avviso, che diciamo si lotta, si batte contro tutte le mafie di questo paese. Abbiamo il record del mondo di mafie, ne abbiamo quattro tipi. E adesso abbiamo scoperto che abbiamo anche la mafia capitale, dove lì dentro sono tutti i partiti, dal Partito Democratico fino ad arrivare agli ex NAR, i nuclei armati rivoluzionari, no? Di destra, i neri. Sì. E quindi siamo l'unico antidoto veramente in quest'Italia che sta andando male, perché bisogna dirlo, stiamo andando male, il debito pubblico aumenta, eccetera. E io mi auguro e spero che tutti quei coloro che vorranno abbandonare il movimento perché non riescono a non prendere 10-15 mila euro al mese, che se ne vadano pure. Anche per lei è solo una questione di soldi. Resti in linea, titoli della 7. La stazione di Bologna con ritardi per il traffico ferroviario, ci sono scritte contro l'alta velocità, Renzi parla di azioni di sabotaggio, Alfano dice che lo Stato non si farà intimidire. Torna alta anche la tensione della maggioranza, al nuovo centrodestra un'ora fa un ultimatum sull'articolo 18, domani il governo lo fa sparire del tutto con i decreti attuativi del Jobs Act o sarà crisi, avverte Sacconi. Ha ripreso a correre come l'economia americana, più 5% il terzo trimestre, Obama vede la crisi alle spalle, le borse volano, ma in Europa resta l'incognita Grecia, con le elezioni anticipate che sembrano ormai sicure. L'Istat descrive nel suo rapporto attuale, annuale un'Italia che continua a invecchiare, che ha perso in 12 mesi mezzo milione di posti di lavoro e in cui lo squilibrio che è dato dall'indice di vecchiaia, dagli over 65 e dai sotto 18 è il più alto d'Europa dopo la Germania. Il presidente dell'anticorruzione Cantone, commissario di appalti a Roma, erano stati affidati a società vicine a Mafia Capitale. Sei parlamentari del Partito Democratico rischiano il processo per le spese non giustificate dei gruppi parlamentari del Lazio. Abbiamo Nazario che sta chiamando da Forlì Cesena, però mi scusi, anche lei la mette sul piano diciamo dei soldi e degli stipendi che questi diciamo fuoriusciti parlamentari in polemica con Grillo, secondo lei sono in polemica solo per quello, però questi ultimi tre che si sono dimessi da parlamentari, come la mettiamo? Cioè non può essere per quello che se ne vanno, no? Perché rinuncia allo stipendio. Pronto? Pronto, mi sente? Sì. Pronto? La sentiamo, sente? Nazario? Le rifaccio la domanda o l'ha sentita la domanda? No, capito. Sì. Cioè, a mio avviso, il problema fondamentale è la drastica riduzione di stipendio che i nostri parlamentari si sono attuati e hanno deciso di attuare. Per il resto diciamo che... Ma cosa c'entra questo con chi rinuncia allo stipendio, Nazario? Scusi, lei non ha capito, questi si sono dimessi da parlamentari, rinunciano allo stipendio, quindi non è per ottenersi lo stipendio che se ne vanno. Si sono dimessi da parlamentari, innanzitutto anche altri 5 senatori volevano dimettersi da parlamentari, ricordo i nostri, invece sono ancora lì in Parlamento, addirittura... Uno è diventato, diciamo, è stato cooptato quasi dal PD, ha avuto una specie di promozione su una commissione. Quindi adesso io intanto voglio vedere se questi si dimettono veramente, perché noi parliamo sempre prima. Va bene, vedremo, Nazario. Quando poi si saranno dimessi ci richiama e lo commentiamo. Grazie, buona serata. Raffaele da Brindisi. Sì, buonasera. Prego. Quello che volevo dire è che possa andare a indirizzo, cioè possa essere ascoltato dal Presidente del Consiglio, è questo. Da quando è iniziato con tutti gli argomenti che aveva messo a monte, c'era quello di abolire le partecipate, ma non se ne sente parlare più, perché togliere tutti i politici dalle partecipate è solo togliere dei voti, i potenziali per il partito. E lì c'è un grandissimo spreco. L'altra cosa che volevo mettergli in evidenza è l'ospedale. Io per poter fare delle visite urgenti in una certa maniera ho dovuto affondare i risparmi, perché ho 4 figli e ho dovuto spostarmi con i soldi, perché altrimenti oltre a non trovare le persone preparate non trovi neanche la possibilità di poterlo fare in tempi brevi. E quello che gli volevo dire in particolare è questo: quelli che lavorano in ospedale hanno quasi tutti il loro studio medico al di fuori dell'ospedale. E io mi domando, io sono un autoferrotranviere, io non posso fare neanche una virgola al di fuori del mio lavoro, e stranamente, cioè io lo reputo anche giusto, perché naturalmente io trasporto delle persone, devo stare bello ancia. Loro giocano con la vita delle persone. Quando un medico ha fatto 6, 7, 10 visite il pomeriggio, all'indomani in ospedale per me è quasi uno zombie. O si deve andare a coricare su qualche lettino preparato da qualche infermiera compiacente in modo che si riposi, a dove aver timbrato il cartellino naturalmente, e allungano tutte quante queste liste di attesa. Perché se lo fai in casa ti fa 10 visite, se le fai in ospedale non te ne fa neanche 3. Raffaele, io la ringrazio, anche se lei ha aperto un file, diciamo così, che meriterebbe una trasmissione tutta intera su quello che stava dicendo, che tra l'altro non c'entra neanche moltissimo con lui di cui stiamo parlando questa sera. Comunque, andiamo con Claudio che chiama da Roma. Pronto? Claudio, buonasera. Mi sente? Forte e chiaro. Senta, allora io mi rimetto a Gigi di Milano senza tanto mettermi in tensione a urlare, sto con lui, però le voglio dire, lo sbaglio di Grillo, sa qual è stato, rispetto a tutto l'arco parlamentare, di essere stato onesto, perché se all'inizio con Bersani gli cantava la favoletta che ha cantato Renzi e Enrico Letta, adesso stavamo al governo alla grande, invece ha fatto l'onesto. E si è preso in quel posto. Ma perché, perché ha fatto l'onesto? Era da disonesti andare. Quando noi ci ha chiesto il voto, ci ha detto: no, non ci mescoliamo con questa merdaccia. Cioè, è stato coerente, non onesto. È stato coerente. Quindi ho ragione io quando dico che il Movimento 5 Stelle. Mi scusi, ho ragione quando dico che il Movimento 5 Stelle rischia di morire in nome della coerenza. Ne può restare uno se quello è coerente. Il Movimento 5 Stelle esiste perché la logica di questo movimento era quello di entrare in Parlamento e eliminare, come ho detto prima, tutta la merdaccia. Cioè ieri ho sentito un presidente della Repubblica comunista dichiarato che si è permesso di dire che queste riforme devono andare avanti, ha criticato la Costituzione, ha detto che ci sono cose sbagliate, sono da rivedere, e oltretutto per me ha offeso magistrati che stanno facendo il proprio dovere, vedi Di Matteo, pignatone, se tu ti rivolgi sì, se l'è presa con quelli però che esternano, Claudio, non se l'è presa con i magistrati in quanto tale, ha detto che ce ne sono alcuni che esternano io sto con le mani in pasta, quindi le vedo dal vivo. Cosa vuol dire se che c'è le mani in pasta? Se tu dici a un magistrato che deve fare meno protagonismo, è come dire, pignatone, che cazzo l'hai combinato? Potevi stare all'angoletto tuo? Perché lì in mezzo a tutti questi no, io non la leggo così. Guardi, io non la leggo così, non è che abbia particolarmente simpatico Napolitano, però il protagonismo dei magistrati non è quello nelle inchieste, è quello nelle interviste. Grazie Claudio, comunque no, grazie. E me faccia di un'ultima cosa. Sì? Mi permetta, chissà quando la recupero. Quando in Parlamento sentiamo quello che si dice e dove vanno le votazioni del movimento e dove vanno i voti degli altri partiti, vediamo chi è coerente e chi no. Perché? Pronto? Sì, finisca. No, perché gli unici, poi si dice, ma questi che hanno fatto fino adesso? In Parlamento ci stanno sempre 100 voti per le cose giuste per i cittadini e 450-500 per i disonesti. Va bene, grazie, così è finito anche questo argomento. Claudio, adesso facciamo una pausa brevissima, poi torniamo. Allora, abbiamo ancora qualche ascoltatore, Pier Antonio da Bergamo, buonasera. Sera. Prego. Sono in linea, sì? Sì, tocca a lei, è il suo momento. Sì. Ecco, niente, volevo segnalare un nominativo eventuale presidente futuro della Repubblica. Vada. Sergio Romano, l'ex ambasciatore. Sì. Una persona che mi sembra abbia le doti per poter essere un ottimo presidente, sia dal punto di vista diplomatico, conoscenza dell'estero e per le sue precedenti esperienze, nonché lo seguo come notista sul giornale in cui scrive e mi sembra che va bene. Aggiungiamo Sergio Romano tra i candidati al Toto Curinarie qui su Radio 24. Adesso sentiamo Luigi che chiama da Roma, buonasera. Sì, salve, buonasera. Sì. Buonasera. Allora, stavo sentendo come tutte le sere la trasmissione e lei ha esordito dicendo di fare gli auguri di Natale ai vari politici, a Renzi piuttosto che a qualcun altro. Sì. Ecco, io invece vorrei farlo a me stesso e a tanti piccoli imprenditori che con tanta fatica e tanta difficoltà riusciamo, malgrado tutto, ancora ad andare avanti e a credere in questo paese, malgrado lo schifo, malgrado i Cosentino, malgrado la mafia romana, malgrado tutto. Lei che attività, Luigi? Allora, io avevo un negozio di prodotti biologici, un'attività familiare che purtroppo a giugno ho dovuto chiudere. Come mai? Potremmo parlarne fino a domani. Non andavano le vendite come dovevano? No, diciamo che oggi aprire un'attività in un momento come questo in Italia è veramente una cosa molto molto difficile. Ma da quanto tempo aveva questa attività? 2 anni e mezzo. dicono le cifre che il settore tiri, invece no, il biologico. Sì, infatti per questo abbiamo aperto. Io tra l'altro ho una grossa esperienza del settore, insomma, essendo tanti anni che lavoro nel biologico. Però il problema è che quando ci vai a mettere l'affitto, le spese, i 1800 euro di bolletta dell'AMA, che noi produciamo come negozio solo cartoni, dovrebbero pagarci loro. Sì, perché poi il cartone è una materia prima, si ricicla, lei dice, dovrebbero pagarci 1800 euro l'anno di tassa sui rifiuti. Sì, esatto, ma tanto per dirne una, per non parlare dell'elettricità, ma arrivavano delle bollette spaventose, neanche se avessimo una centrale nucleare. Adesso che ha dovuto chiudere, cosa fa? Bella domanda. Come ho detto prima, stiamo cercando comunque di andare avanti, di trovare altre soluzioni. In bocca al lupo. La ringrazio. Grazie Luigi, grazie per averci chiamato. Buona serata e auguri naturalmente a lei e a tutta la sua famiglia. Serafino da Ravenna. Buonasera, volevo fare gli auguri. Vada. Faccio gli auguri all'Italia migliore, quella della sua trasmissione, in alternativa all'Italia peggiore, che è quella che piace tanto a Cruciani. L'Italia migliore, è il sottotitolo, cronaca di un paese migliore, di Si può fare, il programma che facciamo sabato e domenica. All'Italia migliore. Grazie, naturalmente. Non invece l'Italia peggiore, che è quella che per 11 mesi all'anno ci dobbiamo assorbire con Cruciani. Vabbè, non necessariamente quella è l'Italia peggiore, non lo so, questo lo dice lei. Lui ama intervistare, fare interviste a personaggi dell'Italia peggiore, peraltro sostenendoli, anche se c'è tutto un gioco che io capisco, però intanto parla solo di quella. Serafino, io incasso i suoi apprezzamenti, che dire, buona serata. Intanto noi poi ci risentiremo nella formula del weekend a partire da gennaio. Per adesso, in queste serate, siamo qui in questo orario. Si fanno troppe riunioni, cari ascoltatori, 800 24 00 24, in Sicilia forse sì, perché sentite qua, oggi Libero riporta questa notizia, ultimo nella classifica per la qualità della vita, il comune di Agrigento ha però un record di riunioni consiliari, 1133 nel 2014, più di tutti gli altri comuni. E abbiamo con noi in linea, l'abbiamo convocato, l'ex sindaco di Agrigento, Marco Zambutto, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Non se la prenda Zambutto, ma insomma mi tocca impostarla così, cioè a Trento, che sono primi nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, di riunioni ne hanno fatte solo 109, cioè un decimo, voi ultimi nella classifica 1133, tutte riunioni inutili? Assolutamente sì, la gran parte riunioni inutili. Ma io pensavo che lei si difendesse, invece così. No, guardi, io non voglio difendere riunioni indifendibili. No, ma soprattutto riunioni che non sono state da me convocate. C'è il Consiglio Comunale, che è un organo e ha una sua autonomia che è diversa di quella dall'amministrazione comunale, che è guidata dal sindaco. Sì. Io le devo dire che proprio per risanare il bilancio, e siamo riusciti a risanarlo in questi anni, io ho anche azzerato l'indennità di carica mia. A fronte del taglio dell'indennità di carica di sindaco e di giunta, c'era un consiglio comunale che doveva per forza raggiungere il massimo del gettone di presenza, il massimo dell'importo che era previsto nel bilancio di previsione, e quindi facevano riunioni e di commissione e di consiglio comunale pur di arrivare a raggiungere il massimo. È qui che casca l'asino, il gettone di presenza. Il tema è questo di qua, devo dire molto tristemente, molto crudamente, il tema è questo di qua. Però e quindi riunioni su riunioni per incassare il gettone, cos'erano, 50 euro a riunione per ogni consigliere? No, si tratta di 100 di più. Euro. Sì. Ogni riunione? Sì. E quante commissioni? Però scusi, nell'istituzione delle commissioni consigliari ci sarà un voto del Consiglio e quindi anche della sua maggioranza, non è che nascono così come funghi? Spontaneamente? Praticamente il Consiglio Comunale si organizza con le commissioni. Le commissioni al loro interno si organizzano le riunioni, si danno un ordine dei lavori loro in piena autonomia. Scusi, quante commissioni c'erano nel suo mandato consigliare? Ci sono state, mi sembra, 8 o 9 commissioni. Ripeto, siccome questa è stata una pratica che io ho contestato e io ho avuto un durissimo scontro con questo Consiglio Comunale, proprio perché a fronte dei tagli che io facevo non potevo intervenire su quei fondi, perché la legge non me lo consentiva di intervenire su quei fondi che erano riservati proprio per il Consiglio Comunale, si registrava questo tipo di pratica assai poco... nobile, però sotto il naso di tutti, perché insomma non credo che fosse solo qualcuno che cercava di fare il furbo, se lei lo dice così candidamente, tutti, quindi anche quelli della sua maggioranza, i consiglieri della sua maggioranza. È stato un sistema nel quale hanno partecipato tutti, ma stia attento, io su questo non ho cercato e non avevo maggioranze in Consiglio Comunale. Io in Consiglio Comunale arrivavo presentando gli atti, e lì gli atti nell'interesse della città e mi rivolgevo al Consiglio perché votasse, ma non avevo una maggioranza in Consiglio Comunale. Però poi anche lei ha avuto i suoi guai, perché adesso lei non è più sindaco, si è dovuto dimettere per un'inchiesta? No, guardi, io penso di essere un unico... Cioè il sindaco è commissariato, il comune è commissariato. Il comune oggi è commissariato, io mi sono dimesso perché ho fatto un atto che non dovevo, ma l'ho fatto perché l'ho ritenuto opportuno, perché sono stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio, per una pena di 2 mesi e 20 giorni, non accettavo l'idea di poter essere sospeso, mi sono dimesso, sono andato in appello sono stato riconosciuto innocente, i fatti che mi erano stati contestati sono stati ritenuti assolutamente infondati, anzi nelle motivazioni della sentenza il giudice ha voluto riconoscere il comportamento più che lineare adottato da me di assoluto rispetto delle istituzioni. Comunque, insomma, a questo punto cosa possiamo fare? Un appello all'Italia, dal comune con più riunioni di tutti, a fare meno riunioni nei consigli comunali. No, guardi, la verità è che se entriamo tutti nell'ordine di idee che questa Italia va cambiata, ma per fine a doverla cambiare, anche solo cercare di non peggiorarla, insomma, stare fermi lì, perché fare delle riunioni inutili per incassare i gettoni di presenza sicuramente non migliora, però sicuramente un po' peggiora le cose, quindi meno riunioni, questo potremmo concludere. Ma guardi, le possono anche fare, la cosa importante è che lo fanno a gettone zero, dopodiché si hanno tutte queste necessità di fare gli incontri, bene li facciano, quantomeno li facciano senza farli pagare ai cittadini. Mm. Anche perché, scusa, lei diceva che si è ridotto lo stipendio da sindaco, quanto guadagna un consigliere comunale di Agrigento al momento attuale? Ma guardi, parliamo di 1.000 e rotti euro al mese. Parliamo di cifra lorda o di cifra netta? Cifra netta. No, al netto. Sì. Quindi 1.000 euro netti al consigliere comunale. No, di più. 1.200, sì, dai, un po' di più, 1.300. Dopodiché ci mettiamo sopra che cos'altro? No, questo soltanto. I gettoni? Sì, quelli i gettoni. Sì. E per un consigliere che fa appunto tutte queste riunioni, a quanto può ammontare? Diciamo? No, questo, il dato complessivo all'incirca questo che le ho detto io. Cioè 1.300 euro, scusi, non ho capito, è lo stipendio o base? No, è il totale. Con i gettoni di presenza. Il totale con i gettoni, cioè, senza fare riunioni, allora quanto è lo stipendio base del consigliere? No, non ce n'è stipendio base. Il consigliere comunale, sulla base della partecipazione alle riunioni di consiglio o di commissione, percepisce il gettone di presenza. E lei, scusi, quanto guadagnava da sindaco invece? Allora, io era il previsto dalla legge, sì, era circa 5.000 euro, 5.600 euro circa. Lordi, io parliamo, fatto, lordi. Sì, io ho fatto una riduzione del 30%, andavo a percepire prima 2.900 euro e poi l'abbiamo azzerata del tutto. Va bene, in bocca al lupo ad Agrigento e auguri anche a lei, Zambuto. Grazie, auguri a voi. Buona serata, buona grazie. Serata. 800 24 00 24, Francesco ci chiama da Napoli. Buonasera. Sì, buonasera. Io avevo telefonato quando stava parlando del Movimento 5 Stelle, sì. Non so se... Sì, sì, posso sì. Ancora come no? Allora, io la mia impressione, non l'ho mai votato, sinceramente non penso lo voterò mai, però visto che Grillo... sempre parlato del nano e anche l'ascoltatore di prima ha parlato del nano, io credo che Berlusconi sia stato un ispiratore, perché tutto sommato il comportamento di Grillo, anche se non è parlamentare, non mi sembra molto diverso da quello di Berlusconi. Cioè, io faccio il partito, io ho la capacità mediatica, perché la capacità mediatica ce l'ha Grillo, io ho il blog, io vi mando al Parlamento, fate quello che dico io, laddove secondo me la politica deve essere fatta di compromessi, non incallarsi, ma il compromesso, perché se l'aspirazione è quella di raggiungere la maggioranza assoluta per governare, a parte che forse mi sembra che uno non voglia governare, perché dice no, io se non faccio la maggioranza assoluta non governo, ma dall'altra parte mi sembra una cosa molto vicina a quello che è successo negli anni 20, che poi è durato 20 anni, insomma. Non mi sembra molto dissimile, volete la maggioranza assoluta per governare e cambiare tutto. Fortunatamente Berlusconi non ci è riuscito, pur avendo una grossa diciamo capacità parlamentare, non è riuscito manco a cambiare. Però guardi che avere la maggioranza assoluta è quello che succede normalmente nei sistemi politici americano, francese, inglese, dove grazie al sistema elettorale, in Italia sempre diciamo anche un po' sottovalutato apparentemente dai politici, poi si governa con la maggioranza, questa è la norma, solo in Italia e anche un po' in Germania si procede per maggioranze di questo tipo. Comunque insomma, lei ha toccato vari argomenti, Francesco, grazie anche a lei per aver chiamato. Fra poco abbiamo la borsa, però possiamo ancora sentire un ascoltatore. Paolo da Roma. Paolo, ci sì, sente? Pronto? Sì, prego, tocca a lei. Sì, sì. Pronto, buonasera. Sì. Senti, io vorrei ritornare sul discorso di Lupi e Alfano. Cioè, nel senso, quando Alfano dice che quelli che hanno messo la bomba sono terroristi, sì, allora automaticamente anche tutti i sindaci, le famiglie con le carrozzine, con i bambini piccoli, e fanno i cortei contro la TAV, allora anche quelli, se non terroristi, si potrebbero chiamare i fiancheggiatori dei terroristi. Beh, però scusi, una cosa è sabotare le linee ferroviarie e fare delle azioni di quel tipo lì, un conto è protestare pacificamente con delle manifestazioni, cosa che in Italia si può fare tranquillamente. Sì, ma infatti ha ragione Renzi, cioè chiamiamoli sabotatori, sono persone da punire, ma chiamarli terroristi quando c'è l'intera società civile che segue il fatto di non fare la TAV mi pare eccessivo. Ma al di là del sì, anch'io penso che sia eccessivo come riferimento, insomma, terminologico, è per quello che ci sta dietro. Sì, sì. Anche Alfano, no? Quando tu dice non ci faremo intimidire da chi non vuole fare la TAV. È vero che non deve farsi intimidire dai delinquenti, però chi non vuole fare la TAV sono, ripeto, anche i sindaci, le famiglie di quelle valli. Sì, però non è che se uno ha un'idea e pure un altro in nome di quell'idea dà fuoco a qualcosa o assalta qualcos'altro o tira fuori le armi, allora uno giustifica l'altro, cioè non so se mi spiego. Conta anche il modo in cui uno protesta, no? E sì, esprime certo, questa contrarietà. Diciamo se uno dà fuoco a qualcosa posso cominciare a chiamarlo quantomeno un sabotatore, se non un terrorista, sì, come fa Lupi, anche se io non sono d'accordo. Sì, però va tenuto presente che la cosa per cui si battono male, perché sì, fanno male, vanno messi in prigione, è un problema che è sentito anche dalle persone normali, dalla società civile, no? Va bene, va bene. Usare certi termini mi pare eccessivo, insomma. Grazie Paolo, grazie, buona serata anche a lei. Facciamo la borsa, torniamo subito dopo. 20 e 32 minuti, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in diretta con Si può fare fino alle 21, ancora una mezz'oretta, 800 24 00 24, abbiamo un po' di ascoltatori in linea, chi è che aspetta da più tempo, così facciamo defluire, non ci sono indicazioni, sì, Giampiero dalla Spezia, buonasera. Buonasera Alessio, volevo intervenire a proposito di TripAdvisor perché la multa mi sembra completamente fuori luogo. Io sono un utilizzatore di TripAdvisor notevole in quanto passo circa 8 mesi all'anno, cioè 240 notti all'anno in giro per il mondo in alberghi. E quindi lo usa? E quindi mangio. Lo uso tantissimo e scrivo tantissimo, sono uno dei maggiori, diciamo, scrivacchini su TripAdvisor. L'utilità di TripAdvisor è enorme, soprattutto per i luoghi meno visitati. Ad esempio, la prima volta che sono andato a Teheran in Iran l'ho trovato estremamente utile, ho rapportato moltissimo sugli alberghi, le visite ai ristoranti. Quindi è utilissimo per chi viaggia. È pieno di recensioni false, questo è verissimo. Ma uno, si riconoscono facilmente. Due, è per questo che trovo assurda la multa, sì. Le recensioni false al 99% sono scritte dai proprietari dei ristoranti. È quello che ho detto anch'io a Nucara, questo è vero, bisogna dirlo, ha ragione. Ma che percentuale c'è secondo lei, visto che lei lo usa molto, no? Ha detto TripAdvisor di recensioni, perché non sono molte poi le recensioni fasulle, o a che percentuale secondo, a un 10% o meno? Io penso che sia qualcosina di più, dipende molto dai paesi, o purtroppo devo ammettere che l'Italia, ma non solo l'Italia, comunque l'Italia indubbiamente ha una percentuale di recensioni false enorme, ma sono molto semplici da vedere. Se io vedo 20 giudizi, tutti quanti con una che sono il singolo giudizio della persona, sì, e tutti a 5 stelle che dicono questo è il miglior ristorante del mondo e si tratta di una pizzeria di cani cattivi, è chiaro che io dico vabbè, questo non lo sto nemmeno a guardare, così come non guardo in mezzo a 100 giudizi estremamente positivi, non guardo mai il giudizio iper negativo di quello che ipercritica, mi sono stato trattato male, a parte che c'è sempre la possibilità di una nota negativa. Quindi io filtro semplicemente, mi guardo tutte le persone che hanno come me, io 270, 500 e passa giudizi, 270 di alberghi e ristoranti, mi vado a vedere la gente che ha 50, 60, 80 giudizi scritti, capisco che è gente che viaggia, che gira, e di conseguenza vado a colpo sicuro. Ed è utilissimo, io visito 30 paesi all'anno e a volte vado in zone, se vado in Algeria, in Tunisia e posti così, mi serve in maniera enorme. Certo, se vado a Parigi me ne posso anche fregare, però sì, no, ma lei è la conferma, Giampiero, grazie, lei è la conferma del fatto che questo servizio ha una sua forza enorme, che si va diffondendo sempre di più, una sua utilità, e quindi diciamo non è contrastabile da chi lo critica per queste recensioni fasulle nei termini di eliminarlo o di modificarlo radicalmente. Anche il fatto di inserire le recensioni non anonime è molto difficile, secondo me, che si possa ottenere. Forse si può aumentare un pochino di più, diminuire un pochino più il grado di anonimato collegandolo, che ne so, all'uso del telefono o ad altre cose, però insomma è molto usato, molto molto apprezzato da chi lo utilizza. Poi bisogna anche saperlo utilizzare, sicuramente. Ennio da Milano, buonasera. Buonasera, grazie per avermi dato questa opportunità. Volevo un attimino tornare sul discorso dei detenuti, no, per il lavoro e quant'altro. Io sono di un parere, è giusto quello che si diceva, il discorso dei detenuti, farli lavorare eccetera eccetera, sì. Ma non tanto tempo fa c'è stata una trasmissione che hanno fatto vedere che un detenuto comunque deve essere retribuito. Io dico solo una cosa, se uno che è detenuto perché ha commesso un reato, per cui ha creato un danno alla società, alla collettività e quant'altro, non vedo perché non possa lavorare senza essere pagato, anche perché le spese, i giudici, gli avvocati e quant'altro, li paghiamo con le nostre tasse. Io sono un lavoratore italiano, 40 anni che lavoro quasi, pago le mie tasse, con quelle mie tasse vengono pagate le forze dell'ordine piuttosto che, ma con i miei soldi viene pagato anche chi ha commesso un reato. Okay? Sì. Io sono d'accordo con lei, però c'è anche chi ritiene invece che il lavoro debba essere comunque retribuito. per esempio in Germania viene retribuito poco, meno di quello che avviene nel mercato, cioè uno lavora per, mi pare, 10 euro al giorno, qualcosa del genere, che comunque, vivendo all'interno del carcere, può bastare per comprarsi, che ne so, le sigarette, una camicia nuova, pagarsi del cibo. Quindi quella tedesca, per esempio, è una soluzione, una via di mezzo. Io sono d'accordo con lei, però c'è anche chi non la pensa così. Che dire, Ennio, ancora in linea? Ennio? Sì, qua, mi sente. Voleva concludere. Volevo concludere, io dicendo, cioè, quando ho visto anche un servizio in televisione della Gabbanelli, cioè, sì, abbiamo le carceri fatiscenti, vengono pagati con i soldi pubblici, dando gara alle imprese e tutta la cricca che ci sta dietro e quant'altro, si elimina la fuffa. Sì, ma anche lasciando perdere la cricca, la fuffa, sì, c'è, sì, un costo di quasi 3 miliardi di euro l'anno, quindi... Appunto, che potrebbero essere risparmiate, potrebbero essere investiti di più sulla ricerca, su tante altre cose molto più utili, ok? E se un detenuto è dentro che deve scontare la pena, lavori, ti insegno anche un mestiere, hai 30 anni da scontare, fai 30 anni di lavoro, quando esci avrai una professione, ok? Per cui io ti ho ridato la dignità lavorativa, non quella di rifare il delinquente, e in più le mie tasse non andrebbero a mantenere quelle persone che commettono reati e ci creano del danno. Va bene, grazie anche a lei, Ennio. 800 24 00 24, tra poco altri ascoltatori. Adesso invece una notizia, abbiamo data ieri sera in trasmissione in apertura come buona notizia: mulini e ville storiche, progetti da 100 milioni per l'agricoltura in città. Siamo a Milano, in Lombardia. Gocciola l'anima sciolta a metà, per non vedere chi si venderà, serenamente a un futuro presente che per non amare si accontenterà. Qui nel momento io sono qua, sotto la pioggia con la siccità, come cemento fermo nel vento, e all'improvviso un lampo mi accenderà. Uno dei pochi settori in crescita viene evocato ogni volta che c'è un'alluvione, una frana o qualcosa del genere. Parliamo da un lato dell'agricoltura, dall'altro della manutenzione del territorio. Tutti lo vogliono, ma nessuno lo fa. Adesso a Milano e in Lombardia c'è un accordo tra il comune di centrosinistra e la regione di centrodestra, e anche questo è un valore aggiunto. Poco più di 100 milioni di euro da spendere proprio in progetti di riqualificazione delle zone agrarie intorno alla città di Milano. Ne parliamo con l'assessore al territorio, all'urbanistica e difesa del suolo della regione Lombardia, Viviana Beccalossi. Buonasera. Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori. Allora, intanto io mi verrebbe da dire complimenti, prima di entrare nel merito, io ho detto un po' quello che hanno scritto i giornali, complimenti perché c'è un accordo tra una regione a guida di centrodestra e un comune a guida di centrosinistra per andare in una direzione, e già questo può essere una notizia. Io posso dire una cosa, sì, che per quanto riguarda la regione me ne sono occupata io, ma per quanto riguarda il comune se ne è occupata il vice sindaco Adele Cesaris, e entrambe conosciute per essere due donne abbastanza toste. Come dire, toste dal caratteraccio, ma credo che quando si abbracciano cause giuste sia anche importante andare oltre l'appartenenza politica. Bene. Lo abbiamo fatto insieme per combattere il tema della ludopatia, o meglio per aiutare le persone malate di ludopatia, per combattere l'apertura di nuove case di slot machine, ed è stata un'esperienza, è tuttora un'esperienza positiva. Questa ne è una conferma, che quando la causa è giusta chi se ne frega di come uno la pensa politicamente, no? Ecco, ci dica allora, poi magari descriviamo anche i contenuti del progetto, certo, però la causa giusta, la causa condivisa da tutti, come la sintetizzerebbe? Qual è questa causa? Beh, innanzitutto quello di ricordare che Milano è una grande città metropolitana, ma che ha anche una sua vocazione agricola, specie evidentemente nelle aree intorno alla metropoli di Milano. E quindi ci siamo messi insieme con Palazzo Marino per vita quello che dal punto di vista amministrativo si chiama accordo quadro di sviluppo territoriale. Di fatto è... Oddio, è caduta la linea con l'assessore? Assessore Beccalossi? Mi sentite? Eccola, sì, era caduta per un momento. Sono in autostrada, sto cercando di tornare a casa sotto la nebbia. Allora, adesso la sentiamo benissimo comunque, prego. Perfetto. Allora, è un progetto che prevede innanzitutto delle opere per rafforzare appunto anche gli argini, per le ragioni che diceva lei prima, per evitare che Milano vada sott'acqua ad ogni pioggia, ma prevede soprattutto opere di miglioramento per quanto riguarda appunto quella parte agricola che riguarda Milano, tant'è vero che coinvolgiamo 4 distretti agricoli e quindi chiediamo insieme agli agricoltori di fare dei progetti che prevedono la limitazione del consumo di suolo. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato della mia legge sul consumo del suolo, importantissima, certo. Ecco, che per me è molto importante. Questi invece sono 130 progetti che prevedono ad esempio quello, ma prevede ad esempio anche una serie di filari, di fiori, la riqualificazione di case lungo il fiume, interventi di carattere per evitare il rischio idrogeologico, ma anche il potenziamento di alcune coltivazioni proprio per valorizzare quella parte verde della nostra bellissima metropoli milanese, che secondo me non deve dimenticare anche una vocazione agricola ai più sconosciuta, ma che di fatto c'è. Allora, io l'ho salutata come buona notizia, naturalmente, e questo è per quanto mi riguarda, però faccio anche un po' l'avvocato del diavolo, no? Cioè, cerchiamo di fare le pulci. Allora, siccome tra le cose che scrivono i giornali e che anche lei stava citando, allora io leggo salvaguardia dei fontanili presenti dall'Adda al Ticino, oppure riscoperta delle ville storiche, recupero 10.000 metri di filari su prato fiorito, 3.000 nuove piante per la riqualificazione boschiva. Benissimo, piante fiorite, fontanili, recupero di cascine, però uno dice, ma sentiamo parlare di rifiuti tossici interrati lungo la 4, sappiamo che i problemi ambientali possono essere ben più gravi che non il recupero di qualche fontanile, non è che ci sono delle altre emergenze che magari potevano venire prima a livello proprio di recupero ambientale, di bonifiche da fare, che, e quindi siamo stati all'intervento di faccia. L'altra. Allora, innanzitutto una cosa non esclude l'altra, perché Palazzo Marino non conosco perfettamente tutte le azioni che ha messo in campo per quanto riguarda la bonifica di alcune aree. So che Regione Lombardia è impegnata in tal senso anche col Ministero dell'Ambiente. Ripeto, una cosa non esclude l'altra, anche perché noi con queste risorse le andremo a reperire sì dai bilanci di Palazzo Marino e di Regione Lombardia, ma anche da finanziamenti di carattere nazionale ed europeo, e ripeto, il fatto di finanziare, e dobbiamo evidentemente trovarle queste risorse, non sarà facile, ma ci impegneremo, credo che l'Unione farà la forza, ma una cosa non esclude l'altra, si può fare e si debbono fare le bonifiche, si può anche fare come stiamo immaginando di fare, quello di affittare a giovani agricoltori con contratti di 15 o di 30 anni cascine che sono state abbandonate. Si può e si deve, a mio avviso, migliorare tutto il tema verde intorno a Milano, aumentando le piante che da un lato dal punto di vista estetico sono belle, dal punto di vista ambientale fanno bene, in taluni casi possono anche prevenire il rischio idrogeologico. Assolutamente, non ci sono controindicazioni. Allora, ci sono i bambini che muoiono in Africa, no. Perché non diamo i soldi a loro per evitare di... Noi facciamo quello che si può fare più di meglio per migliorare la nostra città. Senta, a voler pensare ancora... anche dall'Expo. Sì. Ah, ecco, certo, beh, certo. Questo si collega con Expo. A voler pensare però sempre, cioè, i malpensanti che ci ascoltano, come avete selezionato questi progetti? Cioè, tipo terreni affittati con contratti ai giovani agricoltori, oppure cascine recuperate? Cioè, perché si sceglie una cascina piuttosto che un'altra? O ci sono dei bandi? Le ha selezionate prevalentemente Palazzo Marino, ma evidentemente è tutto un percorso ancora da costruire, che è evidentemente aperto a suggerimenti. E quindi chi fosse interessato, diciamo, a entrare in questo progetto, che deve fare? Può rivolgersi al Comune di Milano o a Regione Lombardia, o attraverso anche le associazioni agricole che sono molto presenti sul territorio, che sono Coldiretti, Confagricoltura, CIA ed altre, per poter accedere a questi bandi. Va bene, in bocca al lupo, grazie e auguri, Viviana Beccalossi. In bocca al lupo e auguri di buon Natale a questo punto a lei, alla sua redazione e ai vostri ascoltatori. Grazie, grazie di cuore. Buonasera, grazie. A presto, e poi saremo lì naturalmente a vedere, perché l'annuncio, lo stanziamento, la realizzazione del progetto, bisogna poi stargli dietro e vedere che tutto vada a buon fine, a buon fine. 800 24 00 24, abbiamo ancora un po' di ascoltatori, anche in questo caso vediamo se c'è qualche priorità, oppure sì, la priorità è Angelo da Milano. Buonasera. Buonasera Alessio, auguri intanto a lei e a tutta la redazione. Telefonavo per due cose. Allora, la prima è, vedo bene Ferruccio De Bortoli come un possibile Presidente della Repubblica, esperienza sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto politico, perché ha visto di tutto in questi anni e mi sembra una persona molto equilibrata e equidistante, quindi lo vedo veramente bene. In subordine Sergio Romano, ma un po' datato. Cioè tutti quelli del Corriere, dica anche uno del Sole 24 Ore, che so, il nostro direttore napoletano. Beh, insomma, bella persona, lo vedo benissimo, napoletano. Grazie. Però lo vedo più nel ruolo. No, detta così sembrava un po' forzata. No, siccome lei ha detto De Bortoli, poi Sergio Romano, e sono tutti del Corriere, dico, ma magari non è che lei c'ha qualche parente che lavora al Corriere, no? Assolutamente no, assolutamente no. Grazie, Angelo. Sì, voleva finire? Un'altra cosa, invece, era questi sabotaggi. Sì? Ricordiamoci che il terrorismo in Italia è nato con dei sabotaggi. Sono cominciati nel Trentino, sono continuati in altre regioni, poi si è scoperto Feltrinelli che ha fatto questo sabotaggio e combinazione era Feltrinelli, se fosse andato bene non si sarebbe mai saputo che era stato lui. E quindi io direi che l'attenzione deve essere più alta, ci sono anche le condizioni economiche, disoccupazione a 14%, c'era nel 70. Quindi lei non, diciamo, non si scandalizza se viene usata l'espressione di terrorismo, no, per queste azioni? Ma, guardi Alessio, semplicemente oggi c'è un terzo della popolazione che vive di stenti, mi creda. Sì, no, ma questo lo conosciamo, quindi secondo lei si può parlare, cioè bisogna avere attenzione per quello che è successo, per questi atti di sabotaggio, e si può anche dire attenzione perché potrebbe esserci dietro il terrorismo. È l'anticamera. Va bene, l'anticamera, grazie, buona serata. Sono disposto a fare un sabotaggio, disposto a fare anche altro, mi creda. Grazie mille, buona serata. Gianmario da Cosenza. Sì? Prego. Sì, senta, io volevo intervenire a proposito delle attività lavorative in ambito carcerario. E mi piaceva l'idea di proporre una carcerazione a punti, nel senso che, mi spiego meglio, più produce il detenuto e prima sconta la pena, cioè uno sconto di pena proporzionale all'attività svolta, fermo restando che, come diceva l'ascoltatore precedente, che è ovvio che un minimo, anche il sistema tedesco ritengo sia molto valido, un minimo di retribuzione vada dato, però considerando che un detenuto ci costa 250 euro al giorno, esattamente quella cifra, sì, sì. Potremmo risanare un minimo dei nostri bilanci disastrati e sarebbero incentivati a produrre e a realizzare e ad imparare un lavoro che poi è il motivo per cui si delinque, cioè la mancanza di voglia di lavorare. Può darsi che in tal modo siano incentivati a lavorare una volta usciti, perché se pensiamo bene i detenuti delinquono perché non hanno nessuna voglia di lavorare, per cui sarebbe anche educativo e formativo. Io sono d'accordo con lei e con chi ha sostenuto questa tesi, e quindi vabbè, insomma, poi chiaramente c'è chi non è d'accordo per vari motivi, perché il lavoro deve essere retribuito. Certo, si arriverebbe però al paradosso che si lavora dentro le carceri, ma non essendoci lavoro fuori dalle carceri, allora questo sarebbe sì un paradosso. Se invece si andasse nella direzione che diceva lei, e che io sono d'accordo, cioè lavorare con stipendi, diciamo, poco più che simbolici, utili per chi vive in carcere, quindi per sostenere piccole spese, tra l'altro anziché farsi prestare i soldi dal racket, perché anche questo è un problema dentro il carcere, no? E dagli strozzini, quindi diciamo criminalità su criminalità, piccoli stipendi simbolici per fare lavori socialmente utili, e sarebbe un guadagno sotto tutti i punti di vista, io credo. Mario da Milano, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo dire solo tre cose su tre argomenti diversi. Sì? Allora, sull'ultimo sono d'accordo con voi sul lavoro socialmente utile, anche se, lo dico come estremizzazione, mi piacerebbe vedere le carceri in mano private, provare, come tante cose sono state appaltate, provare a darle in mano ai privati e vedere come funziona. Cioè, potrebbe andare bene, potrebbe andare male, però si potrebbe provare prima. Seconda cosa, su un argomento di cui avete parlato un un po' di tempo fa, nell'arco della giornata, il Toto Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica. Sì. Io come nome suggerirei Marcello Pera, che potrebbe essere, essendo stato anche la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, potrebbe essere un nome, Renzi parla di nome condiviso, potrebbe essere condiviso alla maggior parte degli elettori in seduta comune. Cosa fa adesso Marcello Pera? Non lo so. Professore universitario, forse si è tornato. Forse sì, non lo so dire. E per ultimo ero d'accordo con due o tre ascoltatori fa, quello che diceva del sabotaggio, che è l'anticamera del terrorismo. Cioè, purtroppo è un po' crudo da dire, ma la discriminante è il morto o il ferito. Se la centralina esplode, il treno va fuori strada, va fuori binario e ci scappa il morto o il ferito, allora è terrorismo. Se, grazie a Dio, come questa volta non è successo, non succede niente. Insomma, voglio dire, meno male che non è da sabotaggio diventato terrorismo. Però siccome questo paese ha già dato tanto, destra, centro, sinistra, ha già dato tanto al terrorismo, insomma, ci manca solo che quattro ragazzotti, sì, contro l'ottava, come dire, alimenti, cioè, ci sono già tanti morti. Aveva detto tre punti, li ha già fatti tutti e tre, ma non mi ricordo. Sì, oh, sì. Okay. Vi saluto e vi ringrazio. Va bene, grazie, auguri, auguri, buona serata. Andiamo con Lorenzo da Torino. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo proporre un nome per il prossimo Presidente della Repubblica. Spari. Un po' controcorrente, al di là del colore politico, noi abbiamo in Italia un personaggio che è molto colto, preparato, riservato, stimato a livello internazionale. Sì. E per non parlare poi con i rapporti, con gli ottimi rapporti con la Chiesa, che conosce molto bene la macchina statale. Ottimi rapporti con la Chiesa, vabbè, sì. Il suo nome è Gianni Letta. Gianni Letta, Però bisogna dire una cosa, che Gianni Letta è l'uomo di fiducia di Berlusconi e quindi è anche molto politicamente connotato. Insomma, perché gli altri presidenti della Repubblica erano collotati allo stesso modo. Sì, non hanno, quindi... uno come Napolitano non aveva avuto ruoli così. Certo, era di sinistra, marcatamente faceva parte del Partito Comunista, però non era stato, diciamo, il braccio destro, sì, del leader. Detto, sì. Al di là del colore politico, però un personaggio come Gianni Letta. Ma come Prodi, guardi, secondo me Prodi era sbagliato, perché essendo stato capo del governo del centro-sinistra in due occasioni, per una parte degli italiani è irrimediabilmente connotato politicamente in un modo che non gli può andar bene, quindi è sbagliato Prodi, è sbagliato Gianni Letta, così la vedo io, per il capo dello Stato. Io la vedrei molto bene, specialmente i grandi rapporti che ha con la Chiesa, che non è da sottovalutare, perché la Chiesa è un potere grandissimo nel mondo. Però scusi, cosa c'entra? Cioè, nel senso, può essere un titolo i rapporti con la Chiesa per fare il Presidente della Repubblica, certo, italiana? Certo, perché il riconoscimento che ha avuto Gianni Letta dalla Chiesa è raro. Adesso non mi ricordo bene come si chiama. Sì, ma sono due ruoli diversi. Che c'entra la Chiesa con il Quirinale? Cioè... C'entra. Cosa c'entra? Me lo dica lei, cosa c'entra? C'entra sempre la Chiesa c'entra sempre nella politica degli stati, specialmente quello dello Stato italiano. Ma questo cosa vuol dire, scusi? Napolitano non c'entrava molto con la Chiesa, eppure ha fatto il Presidente della Repubblica, l'ha fatto male, l'ha fatto bene per quello? Napolitano ha buonissimi rapporti con la Chiesa, ci mancherebbe. Anche non lo so, è lei che ha tirato fuori questo argomento, che sicuramente ce li ha migliori Letta di Napolitano, credo. È un vantaggio comunque. Va bene. Secondo me è un vantaggio. Grazie. Prego, buona serata. Luisella da Ferrara. Buonasera. Sì. Ecco, intanto vi ringrazio di avermi chiamato. Prego. Io come Presidente della Repubblica vorrei segnalare l'ex ambasciatore Sergio Romano. Ancora? Ma che c'ha Sergio Romano? Stasera tutti gli ascoltatori che tifano per Sergio Romano. Non me l'aspettavo. Sì, mi fa piacere. Io infatti non l'avevo sentito nominare. Adesso ho sentito tre persone e questo mi fa piacere. Perché secondo me Sergio Romano è una persona che può rappresentare con molta autorevolezza l'Italia, perché è una persona equilibrata e io leggo sempre i suoi articoli, non solo su Corriere della Sera, anche sulla Stampa, sì, e così, e mi dà proprio l'impressione di una persona onesta, Va bene. Che in questo momento sarebbe proprio la persona giusta. Grazie Luisella, insomma, su Sergio Romano abbiamo già detto, quindi andiamo così. Maria da Genova, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Alessio, io sono una nonna molto anziana, posso darti del tu? Sì, mi fa molto piacere. Perché c'hai un modo di esprimerti. Io quest'estate ho avuto un problema molto serio, malgrado la mia età, alla schiena. E sono stata in ferma qualche settimana. E ti ascoltavo la sera. Sì. Guarda, mi sei entrato nel cuore. So che c'hai una bambina che adesso avrà 7 anni. No, un po' meno, 3 anni e mezzo. Ma allora mi sono confusa. 3 anni, allora sì. Avevi 3 anni. Comunque, forse non ero io, forse era un altro. No, io. No, eri te sì. Dalle 6:30 alle... Sì. Perché ero a letto. Maria, ma adesso l'ha risolto un po' quel problema che aveva avuto? Ma insomma, sai, sì. Sono anziana, ho 84 anni. Bisogna accontentarsi anche un po', no? Va bene, io, infatti, vedi, ho voglia di telefonare. Brava, questo è molto bello, è un bel segno, Maria. Ma mi sei entrato nel cuore quel modo che hai di esprimerti, ti ascolto anche. Basta così, Maria, perché sennò poi mi divento rosso, che alla radio non si vede, mi commuovo e si sente, e non va bene perché il 23 dicembre è Natale, siamo tutti più buoni, poi sennò diventiamo buonisti. Grazie Maria comunque per questa telefonata. A nome di tutta la redazione, tutta Radio 24, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Auguri, ci sentiamo, vabbè, ci saranno altre apparizioni, si può fare, registrare. Però in diretta ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie. In regia Valeria Bernardi, in redazione Daniele Buonamici, Cristian Goldoni. A lunedì prossimo allora. Ciao da Alessio Maurizio, auguri a tutti, ciao.